Fuxia è un offspring, praticamente un nuovo formato che nasce dal Mercatino Verde del Mondo, che è un progetto di Human Rights Nights. In questo caso, questo nuovo progetto Fuxia, che è un mini Mercatino Verde del Mondo, in un certo senso una versione più piccolina, perché è in un giardino più piccolo, si è ispirato all'attività dell'Associazione Orlando, quindi alle creatività femminili. È quindi un nuovo formato che sviluppiamo appunto insieme al Centro delle Donne di Bologna. Si vuole creare uno spazio creativo, artistico, culturale, culinario, dove vengono valorizzate e celebrate le creatività plurali, in questo caso anche femminili, per fare sì che ci sia una reale coesione sociale, una reale integrazione. Molti parlano di multicultura, integrazione, eccetera, però poi non sono molte le occasioni in cui le persone si possono incontrare. Quindi il Mercatino Verde del Mondo da ormai 5 anni crea questi spazi in maniera molto difficile, anche perché molti degli spazi vengono assegnati poi invece ad attività più o meno commerciali, oppure quello che viene definito concertifici, in un certo senso cercare di fare dei concerti per poi comunque fare somministrazione. Noi invece, e hanno anche a volte dei fondi, noi non abbiamo fondi, cerchiamo di sostenerci appunto un po' con la somministrazione di cucine del mondo, oppure di cose un po' particolari, ma nello stesso tempo il fulcro e lo scopo è quello di creare delle situazioni in cui le persone si possono incontrare al di là di dinamiche politiche, commerciali o di profitto, insomma, giusto come si faceva una volta nei paesi che ci si ritrovava la sera e si parlava, insomma. C'è una valenza simbolica nello svolgere questo festival qui negli spazi dell'Associazione Orlando e nel giardino Lavinia Fontana? Sì, no, è per questo che l'abbiamo chiamato Fucsia e trasformeremo questo spazio. Secondo me Fucsia è un po' come cercare di contaminare con questa visione di gender equality, o comunque il fatto che comunque siamo tutti insieme, quindi non ha senso che ci siano queste disuguaglianze, non ha senso che ci siano queste disuguaglianze nella nostra società tra persone che provengono da paesi differenti e assolutamente poi tra persone che contribuiscono alla nostra vita, uomo e donna, quindi non ha senso. Quindi sì, la programmazione è stata ispirata da questa collaborazione, soprattutto perché nel campo delle arti e delle performance, della musica, del cinema, c'è ancora un gap molto, molto forte tra chi è produttore, tra chi registra, tra chi è musicista. Sono sempre troppo poche le donne, o comunque non sono neanche le attrici sono pagate allo stesso livello degli uomini, neanche le grandi star. Hanno sempre comunque dei cachet minori e non è giusto questo, infatti questo fa parte poi di una campagna molto, molto grande anche a livello internazionale e che si rifà anche al tema della discriminazione, ma anche al tema dell'harassment, quindi delle violenze, delle pressioni psicologiche anche che vengono fatte alle musiciste o adesso la campagna Me Too è un esempio nella parte del cinema che è nata appunto poi da una donna anche forte italiana, Asia Argento, che poi è stata anche trattata un po' male qua dai media, però a livello internazionale è stata l'eroina che ha portato avanti questa nuova campagna, Me Too, che comunque sta rivoluzionando un po' tutto quello che è il mondo, l'industria del cinema, dal punto di vista di questa sensibilità di non permettere che queste cose possano accadere. Però lo stesso nella parte della musica, della performance, è molto difficile, più difficile per una donna. Quindi questa programmazione vuole celebrare in un certo senso le creatività femminili, ma anche la resistenza e la militanza, insomma, che si porta avanti attraverso la propria arte da parte di donne e di ragazze. E ci sarà anche un focus alle nuove creatività emergenti, appunto alcune delle musiciste e artiste che noi presentiamo sono giovani rapper e quindi appartengono alla nuova generazione. Ci sarà cinema in 2 serate, e appunto con la presentazione di alcuni film di registe particolari e molto, molto originali, come appunto Shirin Shah o Trinity Mina, Shirin Shah iraniana che vive a New York, Trinity Mina anche vietnamita, Catherine Bigelow americana, e forse stavamo pensando di fare anche un omaggio a una regista italiana. Nello stesso tempo la musica sarà il nostro focus principale del programma. Avremo artisti appunto come Tecla, come Amaka, La Tarma, Valeria Turbon, oppure del gruppo Popoio, oppure Serena Zaniboni, che sono musiciste, jazziste, visual anche performance, e loro porteranno la loro musica e nello stesso tempo ci saranno gruppi o artisti che faranno delle omaggi alle, per esempio Pier Tosi, le Ladies of Reggae, oppure il gruppo della famiglia grande di Chico, Mama Africa e Jacinta porteranno un omaggio alle donne attraverso la loro musica, quindi parleranno contro la violenza femminile.